I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Deborah Rosciani. I mercati finanziari continuano ancora a puntare i riflettori sulle politiche monetarie. Dopo gli annunci di Mario Draghi di 10 giorni fa, nuovi imponenti stimoli monetari arriveranno in dicembre e poi sono arrivate a metà settimana le indicazioni della Federal Reserve, che invece riprenderà in dicembre ad aumentare il costo del denaro per la prima volta dal 2006. Politiche monetarie divergenti per affrontare situazioni economiche divergenti, l'Europa ancora in difficoltà, un'inflazione molto lontana dai target della BCE e dall'altra parte la ripresa ormai consolidata negli Stati Uniti. Anche la Banca Centrale del Giappone ha detto che proseguirà a pieno ritmo con i suoi stimoli monetari e intanto un buon punto della situazione lo hanno fatto le borse cinesi, che dopo un'estate terribile, come ricorderete, hanno archiviato il mese di ottobre con un recupero del 10%. Bene anche Wall Street, che ha chiuso il mese di ottobre come miglior mese da 4 anni a questa parte. Per i casi di Piazza Affari abbiamo avuto il debutto tiepido di Poste Italiane martedì scorso, che non si è mossa molto dal prezzo di collocamento, 6,75 euro. Novità importanti sono arrivate in casa Telecom. Nel capitale del gruppo italiano è entrato l'internet provider francese Iliad, controllato da Xavier Niel, il nono uomo più ricco di Francia, che arriverà, ha detto, con opzioni e partecipazione diretta al 15% del capitale. Saipem ha varato l'atteso riassetto e volata in borsa. Il fondo strategico italiano acquisirà il 12,5% da Eni. Banche molto nervose a Piazza Affari come in tutta Europa a causa dei conti molto pesanti che ha presentato la tedesca Deutsche Bank. Da ricordare anche quello che sta succedendo sul mercato obbligazionario, con i rendimenti dei CTZ a 2 anni e i BOT a 6 mesi, che sono scivolati in terreno negativo. Prima di concludere, come sempre, i temi su cui punteremo i riflettori in settimana: una raffica di trimestrali è attesa, le più importanti italiane, Finmeccanica, Intesa San Paolo, Mediolanum, Generali e la stessa Telecom. La Commissione Europea pubblica le nuove stime economiche e a livello internazionale arrivano le principali statistiche sull'andamento del settore manifatturiero. Arriva infine la disoccupazione americana di ottobre. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Salvatore Padula. Il disegno di legge di stabilità ha cominciato ad affrontare i primi esami al Senato, esami che lo porteranno all'approvazione attesa tra un paio di settimane per passare poi al vaglio della Camera. Da oggi si sono svolte e ancora si svolgeranno numerose audizioni dei soggetti e delle categorie alle quali la Commissione Bilancio di Palazzo Madama ha chiesto un parere sulla manovra. Ma oggi è arrivato anche un documento sempre molto atteso. Si tratta del dossier predisposto dai tecnici del Servizio Bilancio della Camera e del Senato, che cerca di far luce sull'impatto delle misure proposte dal governo. Sotto esame dei tecnici parlamentari sono finite ancora una volta le norme che riguardano l'abolizione della TASI, dell'IMU agricola e di quella per gli imbullonati, norme che, come sappiamo, il governo ha sostenuto e sostiene con determinazione, ma che si confermano tra le più controverse del pacchetto manovra. A finire nel mirino del Servizio Bilancio è il fatto che il meccanismo di compensazione del mancato gettito, cioè quei 4 miliardi di tasse che i comuni non incasseranno più dai contribuenti ma riceveranno direttamente dallo Stato, rischia di irrigidire i bilanci dei comuni, perché limita di fatto la possibilità dei comuni stessi sulle proprie entrate. Un rischio confermato dal fatto che, come sappiamo, il governo ha anche bloccato per il 2016 ogni possibilità di aumento delle tasse locali e delle addizionali, limitando così i margini di autonomia dei sindaci. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.